Sono in attesa ansiosa, dopo aver letto la sintesi di Don Bruno, di conoscere i suoi tre momenti svolti e credo che mi unisco a voi per sentirlo con grande piacere. Grazie. Anzitutto chiedo scusa a coloro a cui per esigenze strutturali do le spalle, ma non dipende da me. Ringrazio Dio di questa possibilità di essere con tutti voi questa sera a pensare insieme, partendo dalla sfida di Kierkegaard. C'è una parola di Jaspers che ha dato a pensare a molti, fra cui Paul Ricoeur. Nostro compito, dice Jaspers, per noi che non siamo l'eccezione, è pensare di fronte all'eccezione. Se ogni pensiero nasce dalla scissione, dalla interruzione, se è soltanto la ferita che rende pensanti e ultimamente la morte come suprema ferita, possiamo comprendere perché l'eccezione è quella che dà a pensare. A noi, che pur non siamo l'eccezione. Ed ecco perché Ricoeur non può non chiedersi, con corrispondenza profonda all'idea di Jaspers, come è possibile filosofare dopo Kierkegaard. È una domanda radicale, ed è una domanda che, se è giustificata da Ricoeur per la filosofia, non lo è di meno, permettete, per il pensiero teologico, soprattutto se si tengono presenti i giudizi che Kierkegaard formulava sulla teologia scientifica. Leggo un testo del diario, dei Papier, dove Kierkegaard scrive: la cosa divertente è e resta la teologia scientifica. Essa è veramente sotto un fuoco di fila e lo sarà sempre di più a causa delle scienze naturali, perché la teologia scientifica è incredula, manca di franchezza davanti a Dio, è in malafede davanti alla Sacra Scrittura. Una opinione potente, una cultura mondana renderà i teologi pavidi, così anch'essi non osano altro che di darsi l'apparenza di avere una patina di scienza. Ciò di cui ci sarebbe bisogno, continua Kierkegaard, è vis comica e coraggio personale. Vis comica per mostrare quanto la protesta è ridicola, poiché essa, per quanto le scienze naturali, dal punto di vista della scienza, abbiano ragione, sbaglia la pointe della religione. E poi coraggio personale, per osare di temere Dio più degli uomini. Dunque, Kierkegaard sembra chiedere ai teologi tre cose: un po' più di umorismo, un po' più di audacia e soprattutto un po' più di fede. Ed allora mi è sembrato che rintracciare, sia pure evocativamente, le risposte che dai teologi gli sono venute, può essere un itinerario plausibile, un itinerario la cui ambizione è appunto quella di contribuire da parte di un non esperto di Kierkegaard, e vorrei dire di uno che nel cammino della teologia balbetta solo qualcosa del mistero, quale sono io, a rispondere a una domanda non meno, ma forse ancora più radicale di quella di Ricoeur: come fare teologia dopo Kierkegaard? Comprendete allora la struttura del mio cammino, il perché di queste tre arcate che in qualche modo vorrebbero congiungere Kierkegaard alla fatica del pensiero della fede oggi, allo sforzo di dire Dio nella inquietudine di questo nostro tempo cosiddetto postmoderno. La prima di queste tappe, di queste arcate, l'infinita differenza qualitativa, la teologia come anti-ideologia, ovvero un po' più di vis comica. Secondo, la singolarità del vero, la teologia come ermeneutica della sequela, ovvero un po' più di coraggio personale. E infine la contemporaneità e lo scandalo, la teologia come teoria critica della prassi, ovvero un po' più di fede. Comincio dunque dal primo momento, la vis comica, la teologia come anti-ideologia. Kierkegaard scrive nel diario che tutta la confusione dei tempi moderni consiste nell'aver abolito l'abisso immenso della differenza qualitativa fra Dio e l'uomo. Questa appassionata denuncia, ce lo ha ricordato ancora Giorgio Penso, è rivolta soprattutto contro il monismo hegeliano dello spirito ed è come un filo rosso che percorre l'intera sua opera ispirandone gli orientamenti e le scelte di fondo, come l'opera di Hegel dà un senso di fascino, di pienezza, di ebbrezza, di gioia, di calice spumeggiante. Pensate a quella conclusione trionfale della fenomenologia con la citazione dei versi di Schiller su questo calice spumeggiante. Così l'opera di Kierkegaard è percorsa da questo filo rosso della lacerazione, della rottura di quella presunzione di continuità che la Vermittlung, la mediazione idealistica, sembra porre fra tutte le cose e perfino fra gli uomini e Dio. È l'out-out fra quella mediazione che risolve ogni cosa nell'unità totalizzante del processo dell'idea e del sistema e la dialettica dell'esistenza che non salta sulle rotture, non banalizza le crisi, ma proprio mantenendo alto e puro il senso dell'abisso che c'è fra il singolo e il trascendente, rispetta la dignità e la libertà dei due termini in tutta la loro irriducibile asimmetria. In altre parole, in un concetto culturale dominato dal concetto di in un universo culturale dominato dal concetto di sistema, qual era l'Ottocento idealistico, tanto nel suo volto borghese quanto in quello rivoluzionario, Kierkegaard non esita a presentarsi, egli stesso dice, come uno scrittore fuori ruolo che non scrive il sistema, né fa promesse di fare un sistema, che non si dà al sistema, né scrive per il sistema, anzi, in maniera esattamente opposta a questo, perché Hegel, dice, nonostante tutte le sue qualità eccellenti e la sua enorme erudizione, nei suoi scritti ci ricorda sempre di nuovo che egli fu, nel senso tedesco, con tutto il rispetto per i colleghi presenti, un professore di filosofia in grande stile, il quale a tout prix deve spiegare tutto. Un Herr Professor che deve spiegare tutto. A tout prix, costi quel che costi. Nel sistema, insomma, tutto va compreso. Perciò non c'è posto per la trascendenza, né è prevedibile alcuna eccedenza. Il presente dello spirito assorbe ogni cosa, tutto si risolve in una tautologia brillante. E questa è la terribile accusa che Kierkegaard rivolge al sistema. Dire sempre la stessa cosa. E dunque essere malato di un'infinita noia che è la ripetizione dell'identico. La critica al sistema viene così a toccare quella che era la pretesa ultima. Da che cosa nasce l'ansia del sistema? Lo sappiamo storicamente, nella modernità, nasce dal bisogno di mettere ordine nella vita e nel pensiero dopo la crisi inquietante della rivoluzione francese e dei suoi sviluppi. Abbracciare tutto, tutto comprendere, per tutto dominare. Ma in tal modo il monismo dello spirito risolve ciò che è e deve rimanere disgiunzione in una congiunzione tranquillizzante, senza salti o fratture. Insomma, Kierkegaard diventa in questo senso l'apologeta della ferita dell'esistenza, dei sentieri interrotti che fanno la vita, della serietà tragica del dolore e della morte. Scrive, siamo ancora nel diario, qual è l'origine del male? Cos'è successo non solo a qualche singolo individuo, ma a tutta l'umanità? È l'intelligenza che ci ha sedotti e ha capovolto il punto di vista del cristianesimo. Come per tutto il resto, si è avuto un et et, un nello stesso tempo, si è e una certa cosa e cristiani. E che cos'è ora ciò di cui ci sarebbe bisogno? Nient'altro che della disgiunzione, di un out-out, enten eller, per sbrogliare tutta questa matassa. Questo, egli confessa, era probabilmente il mio compito. Certo, riprendere il senso dell'abisso, l'out-out che esso porta con sé, non avviene a buon mercato. La ferita di cui si parla non è semplicemente una ferita riconciliata nel pensiero. Potremmo dire quello che vale per la teologia di Lutero, teologia crucis, teologia crucifixa. Si paga a caro prezzo questa ripresa dell'angoscia. Vivere lo spezzamento significa vivere quell'angoscia per sfuggire alla quale i pensatori preferiscono l'abbraccio asfissiante del sistema che ha tutto da ordine. Dove si rinuncia ad afferrare la totalità si affaccia l'ombra inquietante del nulla. Quale effetto è il nulla? Esso genera l'angoscia. È appunto Kierkegaard in Il concetto dell'angoscia. E l'angoscia, si sa, si può paragonare alla vertigine. Chi volge gli occhi al fondo di un abisso è preso dalla vertigine. Ma la causa non è meno nel suo occhio che nell'abisso, perché deve guardarvi. Così l'angoscia è la vertigine della libertà, che sorge mentre lo spirito sta per porre la sintesi e la libertà, guardando giù nella sua propria possibilità, afferra il finito per fermarsi in esso, in questa vertigine. La libertà cade. Dunque, il fascino del sistema sta tutto qui. Ci libera dall'angoscia, ci rende schiavi, ci rassicura, ci toglie quell'esperienza vertiginosa del nulla, che è la libertà. Ora, è per questo che solo la fede può far superare l'angoscia senza togliere il senso dell'abisso. Qui si vede la vera differenza che c'è, per Kierkegaard, fra il pensiero dell'idealismo, che elimina l'abisso perché lo risolve in una immediatezza indiscreta, e la fede, che mantiene la distanza infinita nell'atto stesso in cui l'attraversa perdutamente consegnandosi a Dio. Scrive in Timore e tremore. La filosofia moderna si è permessa di fare senz'altro l'equivalenza della fede con l'immediatezza. Stando così le cose, è ridicolo negare che la fede sia sempre esistita. La fede a questo modo entra a far parte della compagnia volgare del sentimento. È un sentimento di infinita dipendenza, quell'Abhängigkeitsgefühl, che giustificherebbe da sempre, come dire, il senso di Dio. La fede non è questo, è eccezione all'immediatezza, è superamento del rapporto a ciò che è generale, fosse pure la legge morale, per dare il primato ad una relazione assoluta con l'assoluto. È l'esempio altissimo di Abramo. E badate bene, non è l'Abramo di Genesi 12. L'Abramo di Genesi 12 resta il prigioniero dell'eterno ritorno dell'identico. perché l'Isacco della promessa non è che il suo proseguimento. È l'Abramo di Genesi 22 che suscita nella storia qualcosa di assolutamente nuovo, come dice Mircea Eliade, ad esempio, concludendo il suo Le Mythe de l'Eternel Retour. Abramo produce in Genesi 22 l'inaudito prima di lui, e cioè la fede. Qui è l'incommensurabile che vince sulla norma generale, e questo non potrà mai essere compreso da una concezione idealistica, perché l'idealismo non ammette nessuna incommensurabilità. Solo la fede rompe con la continuità, interrompe la sicurezza, e nello stesso tempo solo la fede supera l'abisso. La fede non è una commozione estetica, non è l'impulso immediato del cuore, ma è il paradosso dell'esistenza. Perciò solo veramente la fede dà sommamente a pensare, perché, briciole di filosofia, il paradosso è la passione del pensiero. E pensatori privi di paradosso sono come amanti senza passione, mediocri compagni di gioco. Parimenti, è la fede che fa cogliere lo spessore infinito della differenza qualitativa, perché proprio nell'atto di unire Dio rivela la profondità del peccato, della separazione da Lui. È la fede, insomma, che al tempo stesso ci dà la misura dello scandalo e la gioia liberante della possibilità di affidarci. Dice ancora Kierkegaard, la possibilità dello scandalo è il momento dialettico in tutto il pensiero cristiano. Dal fatto che c'è differenza infinita di qualità fra Dio e l'uomo, nasce la possibilità dello scandalo, lo scandalo, una categoria specificamente cristiana che si rapporta alla fede. La possibilità dello scandalo è una specie di bivio, ovvero è ciò che pone davanti a un bivio. Da questa possibilità siamo in esercizio del cristianesimo. Si partono due vie, l'una porta allo scandalo e l'altra alla fede, ma non si giunge mai alla fede senza passare attraverso la possibilità dello scandalo. Altro che fede come ideologia, rassicurazione, risposta. Qui è la fede come inquietudine, turbamento, rottura, spezzamento, e tuttavia è proprio per questo affidamento e possibile pace. Dunque, se il grande no di Kierkegaard, dovrei dire la passione teoretica ed esistenziale della sua vita, è stato il no alla totalità compiuta del sistema, è la resistenza anti-ideologica, dove per ideologia si intenda il monismo totale dell'idea, il suo richiamo energico a mantenere la distanza che c'è fra Dio e mondo, fra tempo ed eternità, postulata e attraversata dal paradosso della fede, mi sembra la prima grande sfida che Kierkegaard consegna alla teologia cristiana. Che ne ha fatto la teologia cristiana di questa sfida? Dov'è la rottura di Kierkegaard? Dov'è l'abisso? E tuttavia dov'è la possibilità di scavalcarlo in un perdutamente affidarsi? Dov'è, insomma, l'Abramo di Genesi 22 che Kierkegaard ripropone alla nostra coscienza nella teologia cristiana a lui seguita? Vorrei prendere a metafora di una possibilità di recezione profonda di questo Kierkegaard, Karl Barth, il padre della svolta dialettica che dà inizio alla teologia del Novecento. Sappiamo che Barth si riferisce esplicitamente a Kierkegaard. Quando, nella introduzione della seconda edizione del Römerbrief, quella del 1922, quella che segna la svolta dialettica, quella introduzione che vergognosamente nell'edizione italiana non è pubblicata, bisogna andarla a cercare nel volume curato da Moltmann sulle origini della teologia dialettica, dice: se ho un sistema, esso consiste in ciò che io mi tengo davanti agli occhi, fare adeguatamente la malia del sistema, si farebbe bene usare un po' più di vis comica. Per lui è solo un malinteso pensare che sia necessario essere un asso della speculazione per svincolarsi dal legalismo, lo scrive nella postilla conclusiva non scientifica. Per riuscire basta un'intelligenza sana, il senso del comico, un po' di atarassia greca. Fuori della logica, in parte anche in essa, in una luce ambigua che Hegel non è riuscito a schivare, Hegel e legalismo sono una ricerca nell'ambito del comico. Naturalmente sappiamo bene che Hegel non è stato solo questo. Sappiamo bene anche la forza notturna che pervade il pensiero hegeliano. Pensate per esempio a questa interessante esercitazione che è stata il fiore nero di Felix Duk, questa riproposizione dell'anima notturna della modernità. E tuttavia per Kierkegaard Hegel è invece soprattutto questa mancanza della comicità intesa come presunzione di compiersi, di raggiungere il compimento. E qui la malattia vera della ideologia. Questo sforzo per Kierkegaard non ha nulla di diverso da quello di un nano che voglia abbracciare un gigante. Come pensatori si è perfettamente al corrente, gli dice, sulla storia universale e sulle faccende privatissime di Domine Dio. Ricordiamo con un'impressionante analogia la satira di Nietzsche. Dio è diventato finalmente comprensibile a se stesso nel cervello hegeliano. Ecco allora che per scuotersi contro la malia hegeliana, che l'ha ridotta a un semplice pensiero di questo mondo, la bordata va alla teologia liberale che si va profilando, una teologia dunque estranea al senso di Dio, al senso dell'abisso, occorre ritornare a ciò che il cristianesimo deve essere, comunicazione di esistenza e non dottrina metafisica rapportata ai professori, dice Kierkegaard. Una teologia non deve mai smettere di sorridere delle presunzioni del sistema. Quando diventa seriosa ed austera per piacere all'interlocutore moderno, raggiunge come unico effetto l'insignificanza più totale. Io credo che qui Kierkegaard abbia profondamente ragione. Una teologia che perde la vis comica che le è data dalla fede e che scimmiotta la presunzione totalizzante dell'ideologia è perfettamente inutile. Perciò Karl Barth diceva che il migliore dei teologi liberali è stato Franz Overbeck. E sapete perché? Perché ha insegnato tutta la sua vita teologia, lui che non credeva assolutamente in Dio. Almeno, dice Barth, Franz Overbeck era coerente. Era un teologo liberale che spingeva fino in fondo la sua liberalità, no? Ma, dice Kierkegaard, ahimè, mentre l'illustre speculante Herr Professor spiega tutta l'esistenza, egli ha dimenticato per distrazione il proprio nome. Questa è la condizione di chi vuol pensare la totalità. Occorre ripensare la scissione. Occorre riportare nel pensiero della fede il senso dell'abisso. Occorre sdrammatizzare sorridendo le presunzioni totalizzanti di tutti i tempi, di tutti i tempi. Questa forse potrebbe essere l'anima vera del libro dell'amico Salman contro Severino, no? Questa vena di ironia e di comicità. Tuttavia, non basta questo. Ed ecco allora un secondo momento, la singolarità del vero. La teologia come ermeneutica della sequela, ovvero un po' più di coraggio personale. Che cosa dunque in positivo Kierkegaard contrappone all'universale del sistema? Fin qui è soprattutto una critica. Il cavaliere della fede parte lancia in resta per spezzare la presunzione totalizzante che produrrà violenza, alienazione e morte del monismo hegeliano dello spirito e dell'ideologia. Ma in positivo che cosa Kierkegaard offre? Io non esito a convergere su quanto penso ci diceva sulla centralità della categoria del singolo. Il punto essenziale nel singolo è proprio il suo rapportarsi negativo di fronte all'universale, l'atto di respingerlo. Il singolo non è un caso dell'universale, ma è l'irripetibile, l'unico, in cui si gioca nella concretezza dell'ict nunc il tutto dell'esistenza umana. È l'aperta eccezione rispetto ad ogni sistema presuntuosamente totale. È l'irripetibile. Il singolo enkelte è la categoria attraverso la quale devono passare il tempo, la storia, l'umanità. Con questa categoria, quando qui tutto era sistema su sistema, io presi polemicamente di mira il sistema, ed ora di sistema non si parla più. Il singolo, con questa categoria, sta o cade la causa del cristianesimo, dopo che lo sviluppo del mondo ha raggiunto il grado attuale di riflessione. Come singolo ogni uomo è solo, solo in tutto il mondo, solo davanti a Dio, e certamente allora non gli costerà l'ubbidire. Secondo la fede cristiana, Dio stesso si è fatto singolo. Ecco il novum, lo scandalon del cristianesimo. Dio non si è fatto sistema, Dio si è fatto singolo. L'oggetto della fede è la realtà di Dio nell'esistenza come singolo, cioè che Dio è esistito come un singolo uomo. Dal punto di vista cristiano, la verità non consiste nel conoscere la verità, ma nell'essere la verità. Contro tutta la filosofia moderna c'è una differenza infinita su questo punto. E qui è la grande polemica sul rapporto fra la Vernunftswahrheit, la verità di ragione, e la Geschichtswahrheit. Poiché, dice Kierkegaard, poiché Gesù non poteva rispondere alla domanda che cos'è la verità senza deviare dalla verità. Ricorderemo qui il significativo anagramma dei medievali, quid est veritas, e il loro commento anagramma era est vir qui adest. La verità non è qualcosa, un sistema, una dottrina. La verità è e resta qualcuno, qualcuno. Il cristianesimo ridotto a una dottrina è un cristianesimo tradito, un cristianesimo perduto. La fede si rapporta a questo segno dello scandalo, a questo santo che è la decisione per il singolo che è Cristo. Allora, dal punto di vista speculativo, qual è l'idea portante che emerge? All'astratta universalità della verità, Kierkegaard ritiene che vada opposta la singolarità del vero. Questa è la grande tradizione ebraico-cristiana, al punto che, come sapete, in ebraico non esiste la parola verità. Emet, fedeltà, rapporto, patto, alleanza è la verità. La verità è duale, non è monistica, come nel sistema. Per il cristianesimo, cioè, la storia non sta fuori della verità, ma costituisce il luogo della verità dove essa si viene ad affacciare. Il paradosso del cristianesimo consiste in questo, che esso usa sempre il tempo e la realtà storica in rapporto all'eterno. È qui, in questa forte affermazione della singolarità del vero, che la tradizione ebraico-cristiana mi sembra ripresa da Kierkegaard in tutta la forza della sua ermeneutica del concreto. Ricordate quella frase rabbinica che Levinas ama citare: chi non ama la Torah più di Dio non ama Dio. E capite qual è la forza di questa frase? Che Dio non esiste come verità astratta, ma sempre come interpellanza concreta, come patto, come legame. La verità è duale e ti chiede qualcosa qui ed ora nella tua vita. Ebbene, quale può essere la metafora della recezione teologica di questa riscoperta che Kierkegaard fa della singolarità del vero e dell'appropriazione esistenziale di esso come unica via di conoscenza della verità? Se per la ripresa della ferita, dell'abisso, dell'angoscia, dell'alterità irriducibile, tuttavia sorpassata nella fede, senza essere eliminata, mi sembrava di poter indicare in Barth colui che ha tesorizzato per la teologia l'eredità di Kierkegaard, qui mi sembra di potermi riferire come cifra a Rudolf Bultmann. Perché? Perché per Bultmann l'identità del singolo non è astrattamente, ma esiste, sta fuori, si attua nella presa di posizione concreta. L'identità è un continuo progettarsi, un continuo lanciarsi fuori di sé nella decisione autentica che fa la vita. E la rivelazione non è altro che appello ad esistere autenticamente, ad esserci fino in fondo nella libera progettualità del proprio essere singolare. Perciò, sin dallo Jesus, la categoria centrale dell'antropologia teologica di Bultmann diventa la Entscheidung, la decisione. Il valore dell'uomo, per Gesù, scrive Bultmann, non è determinato da una qualsiasi qualità umana o dalla capacità della sua vita psichica, bensì unicamente da come l'uomo si decide nell'hic et nunc della sua esistenza. In altre parole, la verità non esiste come astratta verità in sé. La verità è sempre una verità pro nobis, una verità che ti appella alla decisione esistenziale. Certo, sappiamo bene quanto dibattito e polemica questa tesi bultmanniana ha suscitato. La fede crea il soggetto, diceva per esempio in proposito Italo Mancini criticando Bultmann. E tuttavia c'è una componente profonda di verità nella forza della decisione esistenziale bultmanniana che non può essere eliminata. Esattamente questa eredità ebraico-cristiana della singolarità del vero, che la verità non si pensa, la verità si fa. E il pensiero è un tentativo di seguire il farsi della verità, ma certamente non il catturare la verità. Come dire, si è compresi dalla verità, non la si comprende. E far diversamente è, direbbe Barth, bestemmia. Ebbene, qual è allora la conclusione di questo secondo punto? Che cosa la teologia si sente chiamata a fare da questa provocazione di Kierkegaard sulla singolarità del vero? Io vorrei usare anche qui una categoria kierkegaardiana, il coraggio. Riconoscere la singolarità del vero sconvolge le certezze rassicuranti dell'ideologia, proietta il singolo nel mare aperto del rischio personale, della decisione ineludibile, del coraggio di credere senza vedere. Altro che credere di credere, credere senza vedere. Occorre avere un coraggio umile e paradossale per poter affermare tutta la realtà temporale in virtù dell'assurdo. E questo è il coraggio della fede, siamo in timore e tremore. Che questo singolo uomo esiste davanti a Dio e può parlare con Dio in qualunque momento, sicuro di essere ascoltato. Che per amore di quest'uomo Dio viene nel mondo, nasce, soffre, muore, e questo Dio sofferente prega e supplica l'uomo di accettare l'aiuto che gli viene offerto. In verità, se c'è qualcosa da far perdere il cervello è questo. Chiunque non abbia il coraggio umile per osare di credervi si scandalizzerà. Credere esige coraggio, e lo esige perché rende la vita enormemente ardua. Dappertutto dove c'è Dio, ogni mezz'ora è di importanza infinita. È il coraggio di una decisione esistenziale in cui si gioca tutto. All'amico Vattimo, che cito con rispetto, ma anche con evidente non condivisione, scrivevo: non basta convertire il Dio cristiano al pensiero debole. Questa non è la fede. Occorre, e qui veramente Kierkegaard è il testimone, questa radicale esigenza di compromissione. La decisione sta nel soggetto, egli scrive. L'appropriazione è l'interiorità paradossale che è diversa da ogni altra interiorità. L'essere cristiano non si determina mediante il ciò del cristianesimo, ma mediante il come del cristiano. Ma questo come non si può adattare che a un'unica cosa, al paradosso assoluto. Allora, alla teologia Kierkegaard sembra chiedere un'analoga scelta. Ciò di cui ci sarebbe bisogno è teologi che abbiano il coraggio personale per osare di temere Dio più degli uomini. Ma la teologia dovrebbe ben sapere che questo coraggio dà significato alla vita. Chi ha imparato, dice Kierkegaard, che l'esistere come singolo è la cosa più terribile di tutte, non deve aver paura di dire che questa è anche la cosa più grande. Insomma, una teologia che parli di Dio, ne parli credendo in Dio, che porti alla parola il pensiero della fede e non il pensiero di un credere di credere, più o meno intellettualistico. Una teologia credente, militante, e proprio per questo fino in fondo pensante. Soffrire per la propria convinzione, essere pronto a pagare di persona, compromettere la vita per ciò in cui si crede, questa dovrebbe essere la condizione di ogni pensatore. E io la riconosco profondamente in tanti anche pensatori che si dicono non credenti. Ne è un esempio proprio il mio ultimo libro, Trinità per Atei, nato dalle loro domande. Cacciari, Giurello, Vitiello si sono compromessi in quel testo per fare domande alla fede. Ma io credo che tanto più il teologo deve poter contare sulla franchezza che viene dall'alto. Scrive Kierkegaard in Il Vangelo delle Sofferenze. Secondo la natura del pericolo ci è concessa anche, e questa è la nostra speranza e la nostra fede, la franchezza dall'alto. Cerca la franchezza davanti a Dio. Se infatti il fuoco della convinzione ha avuto il tempo di incendiare lentamente un uomo fino a che egli, quando è venuto il momento, con un profondo sospiro appicca il fuoco alla franchezza, allora la franchezza sofferente è in grado di sottrarre al mondo il potere e di trasformare l'onta in onore, la sconfitta in vittoria. Io ricorderò sempre la risposta degli amici teologi filosofi spagnoli che in un loro congresso, dove tutti, come ormai di moda nella cultura spagnola di questo tempo, si dichiarano atei e non credenti, mi invitarono a parlare. Io chiedo loro perché, e uno di loro è Eugenio Trias, fu una delle più significative intelligenze teoretiche della Spagna attuale, mi risponde: perché noi abbiamo ucciso il padre, ne avevamo bisogno, la Spagna aveva bisogno di liberarsi da quell'eredità teologica, e tuttavia aggiunge, come sempre avviene, ora ne abbiamo nostalgia, e facciamo fatica a trovare qualche teologo che parli di Dio. Ecco, Kierkegaard in questo senso chiede la stessa cosa, che un teologo parli di Dio compromettendo con coraggio la propria vita. E allora arriviamo all'ultimo punto. In negativo il no al sistema e la ripresa dell'abisso, in positivo il singolo e l'esigenza di compromettersi con coraggio nella decisione per la singolarità del vero, terza ed ultima arcata di questo ponte, la contemporaneità e lo scandalo, la teologia come teoria critica della prassi, ovvero un po' di fede. La forte ripresa della singolarità del vero, l'appello al coraggio della fede che ne consegue, mostrano come sia saldo e profondo in Kierkegaard il rapporto fra la teoria e la prassi, fra la dogmatica e l'etica. Se cioè teoreticamente Kierkegaard dice no alla cattura asfissiante del sistema, se egli propone la centralità del singolo, tutto questo ha una straordinaria ricaduta etica, ma vorrei dire più che una ricaduta etica, è la conversione del momento teoretico nell'etico e viceversa. Il fondamento di questa saldatura sta nella concezione della contemporaneità del vero, che è il singolo Gesù Cristo, in cui l'assoluto si è relazionato ai singoli esistenti nel tempo. In rapporto all'assoluto, scrive in Esercizio del Cristianesimo, non c'è che un solo tempo, il presente. Per colui che non è contemporaneo con l'assoluto, l'assoluto non esiste affatto, poiché Cristo è l'assoluto. È facile vedere che rispetto a lui è possibile solo una situazione, quella della contemporaneità. Grazie a questo rapporto di contemporaneità, la verità del singolo ci raggiunge, determina il presente, perché pone continuamente il singolo davanti a Dio. Insomma, ciò che è di importanza essenziale, dice Kierkegaard, sta in queste parole, davanti a Dio. In questo stare davanti a Dio, etica e teoretica, teoria e prassi, metafisica e morale vengono a congiungersi. Il peccato, per esempio. E davanti a Dio, vero con l'idea di Dio, o disperatamente non voler essere se stesso, o disperatamente voler essere se stesso. Ed è in questa condizione di contemporaneità che il singolo giunge alla fede e può essere edificato secondo Dio nel profondo della sua interiorità. Così è stato per i grandi testimoni della fede, che nella contemporaneità alla verità si sono lasciati determinare all'assoluto. E gli esempi di Kierkegaard sono straordinari. Abramo, lo abbiamo detto, ma particolarmente Maria. Chi mai al mondo fu grande come la piena di grazia, la madre di Dio, la Vergine Maria? Così per il cavaliere della fede, che all'apparenza vive come tutti gli altri, però vive davanti a Dio e perciò paga al più caro prezzo ogni momento della sua vita, il suo buon tempo, perché egli non fa la minima cosa se non in forza dell'assoluto, siamo in timore e tremore. Dunque, questo rapporto fra verità ed esistenza non deve però essere frainteso, quasi che etica e fede possano essere semplicemente identificate. La tesi centrale di timore e timore, lo sappiamo bene, è anzi la loro disgiunzione, precisamente a causa del rapporto con l'assoluto. Cioè, la fede può chiedere un atto di obbedienza a Dio che va contro l'ovvietà della norma generale, come quando è chiesto ad Abramo di offrire in sacrificio suo figlio Isacco. Dio chiede ad Abramo di andare contro Dio commettendo il peccato, uccidere il figlio. E allora in che cosa il padre della fede si differenzia da un volgare assassino? Solo nel paradosso del suo rapporto all'assoluto. Il paradosso si può anche esprimere dicendo che c'è un dovere assoluto verso Dio. Dio va amato perdutamente, incondizionatamente, perché in questo rapporto di dovere assoluto il singolo si rapporta come singolo assolutamente all'assoluto. Se il dovere verso Dio è assoluto, il momento etico è ridotto a qualcosa di relativo. E tuttavia, aggiunge Kierkegaard, da questo non segue che l'etica debba essere distrutta, ma ottiene un'altra espressione, l'espressione del paradosso. Ciò che è superato è l'astrattezza della norma generale. In nome di una relazione personale, assoluta con l'assoluto, che può essere vissuta e compresa soltanto nella fede. Insomma, Abramo ama Isacco con tutta l'anima, più della sua anima. E quando Dio glielo domanda, egli lo ama, se fosse possibile, ancora di più. Ma, dice Kierkegaard, solo così può farne il sacrificio. Perché questo amore per Isacco, per la sua posizione paradossale, è l'amore che porta a Dio, che fa del suo atto un sacrificio. E questa l'angoscia e l'affanno del paradosso, per cui Abramo, umanamente parlando, non riesce a farsi comprendere. Allora risulta chiaro che questa etica della fede, quale etica del paradosso, è agli antipodi dell'etica idealistica, totalmente risolta nella norma generale astratta. Dice Kierkegaard, il tentativo disperato della sciagurata etica hegeliana di fare dello Stato l'ultima istanza dell'etica è una fuga immorale dalla categoria dell'individualità in quella del genere. E Kierkegaard non aveva ancora visto i forni crematori e i gulag che da quelle idee sono derivati. Dunque, se l'etica della fede è l'etica del paradosso, si comprende come sia arduo non tanto proclamarsi cristiani, questo lo possiamo fare facilmente, ma diventarlo nel concreto dell'esistenza. La difficoltà, dice, è diventare cristiani, perché ogni cristiano è tale con l'essere inchiodato al paradosso di aver fondato la propria beatitudine eterna nel rapporto a qualcosa di storico. Trasformare con la speculazione il cristianesimo in una storia eterna, Dio nel tempo in un eterno divenire di Dio, sono scappatoie, giochi di parole. No, la facilità del cristianesimo è riconoscibile da una sola cosa, la sua difficoltà. E allora ritorna ancora una volta alla necessità di passare attraverso la decisione, di compromettere sempre di nuovo la vita di fronte al paradosso, di essere seri. Seri, che cos'è la serietà? Per Kierkegaard è l'originalità conquistata dall'animo, l'originalità conservata nella responsabilità della libertà, affermata in ogni istante. si è seri quando si vive ogni istante con l'intensità del primo e dell'ultimo. È stata la via di Cristo a render manifesto in una maniera spaventosa quale orribile falsità sia quella di ammirare la verità invece di seguirla. La fede non si può delegare ad altri. Ciascuno deve viverla in prima persona. Il credente, sì, ripeto una definizione che mi è cara e che trovo corrispondente con queste idee di Kierkegaard, è un ateo, un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. Questo significa camminare soli. Sì, nessun uomo, nessuno può scegliere per te, dice Kierkegaard, il Vangelo delle sofferenze. Oppure in senso ultimo e decisivo può consigliarti riguardo all'unica cosa importante, riguardo all'affare della tua salvezza, soli. Poiché quando hai scelto troverai certamente dei compagni di viaggio, ma nel momento decisivo e ogni volta che c'è pericolo di vita sarai solo. E allora, quale recezione viene alla è riscontrabile nella teologia di questo bisogno di superare l'astrattezza della norma nella concretezza della sequela, di stabilire una pericoresi dei distinti fra etica e teoretica della fede? Vorrei cogliere qui come cifra Dietrich Bonhoeffer. Come Barth esplicitamente cita Kierkegaard, come Bultmann cita Kierkegaard nello Jesus, e badate, è una delle pochissime citazioni, perché Bultmann nello Jesus non cita praticamente nessuno. Dunque è una esplicita dichiarazione di debito. In Bonhoeffer continue sono le citazioni di Kierkegaard. Basta vedere per esempio lo splendido lavoro di Gallas sull'Anthropos Teleios e i richiami a Kierkegaard. Da Kierkegaard Bonhoeffer raccoglie lo stimolo a riflettere sul rapporto prassi-interpretazione, scrive Gallas. Solo nella solitudine del singolo davanti a Dio per Kierkegaard c'è il compimento di questo rapporto. Qui è un punto di differenza. Per Bonhoeffer l'esigenza del rapporto ad altri e dell'impegno storico risalta in primo piano. E tuttavia, pur in questa differenza c'è un punto di incontro, quale? Per entrambi l'ideologia deresponsabilizza, perché trasferisce nella ragione universale il peso della decisione morale. Invece il cristianesimo conosce solo una grazia a caro prezzo, pagata di persona. A caro prezzo, perché si acquista, scrive Bonhoeffer, al prezzo della propria vita. Mentre l'ideologia si costruisce sull'affermazione di sé fino a diventare negazione dell'altro, la fede stabilisce un rapporto con Dio che spinge il cristiano a esistere per gli altri nella sequela di Gesù in un esodo senza ritorno. L'esodo da sé senza ritorno dell'esserci per gli altri, für die anderen da sein, no? Di Bonhoeffer. Il punto decisivo dell'esperienza specificamente etica, scrive Bonhoeffer, non è più l'allontanamento dell'uomo da Dio, dagli uomini, dalle cose, da se stessi, bensì quell'unità ritrovata, quella riconciliazione che è l'amore, la rivelazione di Dio, ma non l'amore astratto, sentimentale, quell'amore che è Gesù Cristo, che è Gesù Cristo. Amore è sempre la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Dunque, come per Kierkegaard, così per Bonhoeffer, vi risparmio i vari testi qui ed altrove che ho citato nella relazione scritta, agli inizi di tutte le vie del Dio vivo, che chiama a condividere la sofferenza e a cercare la via in comunione, oltre la violenza alienante delle ideologie, c'è la rivelazione della croce, l'appello ineludibile alla decisione, l'accoglienza di un dono che cambiano il cuore e la vita. Ed allora, qual è la terza ed ultima richiesta di Bonhoeffer, di Kierkegaard alla teologia? Dopo un po' più di viscomica, un po' più di coraggio personale, ecco la terza richiesta. Per saldare nel paradosso l'etica e la fede, mi sembra che Kierkegaard chieda quell'atteggiamento che solo non vanifica il paradosso, ma lo tiene presente e lo propone. Questo atteggiamento è la fede. Sarebbero del tutto insignificanti se mancasse loro la fede necessaria per svegliare le coscienze invece di addormentarle. È una stoltezza tranquillizzare gli uomini nell'affare della loro beatitudine, poiché il massimo che un uomo può fare per un altro in cose in cui ogni singolo non ha a che fare che con sé e di renderlo inquieto. Il massimo dell'amore è rompere le scatole, direi, e suscitare l'inquietudine, l'ansia, la fame della salvezza di fronte all'abisso. Non è degno dell'uomo accatastare con furbizia strato su strato scienza e ancora scienza. È indegno che io inserisca fra me e la parola di Dio questo. È indegno, insomma, che la mia scienza divenga una sorta di alibi per sfuggire alla resa che mi viene richiesta. Ai teologi Kierkegaard chiede più fede. La fede di ascoltare la parola di Dio come parola viva di giudizio e di salvezza, di trattare con essa come si tratta col fuoco del Dio vivente. La fede di usare la propria scienza non per nascondersi al giudizio di Dio, ma perché esso più chiaramente risplenda e la luce della verità più fortemente arda e raggiunga le coscienze per spingerle dal disimpegno dell'ammirazione al coinvolgimento dell'imitazione. Una teologia credente è una teologia militante che non esita a inquietare la stessa comunità cristiana perché non si appiattisca sul modello insignificante della cristianità stabilita. L'unico modo di sussistere della vera Chiesa di Cristo in questo mondo è lottando. La cristianità stabilita, dice Kierkegaard, dove tutti sono cristiani, ma in interiorità segreta, non somiglia alla Chiesa militante più che il silenzio della morte all'eloquenza della passione. Una teologia che non disturba nessuno, che rassicura il potere di questo mondo, non è una teologia credente. Alla teologia si chiede di tacere piuttosto che di parlare inutilmente e di parlare soltanto quel tanto che basta per aiutare ciascuno a porsi nella situazione della decisione davanti al singolo che chiama a seguirlo. Fra un indiscreto parlare che allontana da Dio e un silenzio vile alleato del compromesso e della comodità, la parola della fede deve preparare la strada al silenzio della fede, in cui si gioca con serietà sempre nuova la propria vita davanti all'Eterno. Il silenzio è ambiguo, ricordiamo. Dice Kierkegaard, il silenzio è la seduzione del diavolo, e più si tace più il demone diventa terribile, ma eppure il silenzio è la mutua intesa fra la divinità e il singolo. Kierkegaard chiede ai teologi un po' di fede, un po' più di fede, per non essere complici del diavolo col loro silenzio, ma ancora di più per non esserlo con la loro parola vuota. Un po' più di fede per vivere nel silenzio la mutua intesa con Dio e testimoniarne l'appello senza mezze misure con la parola e con la vita. Perciò chiudo nella maniera la più corrispondente a questo Kierkegaard che parla ancora ai teologi, e cioè pregando con lui. Non permettere che dimentichiamo, egli dice, tu parli anche quando taci. Donaci questa fiducia. Quando siamo in attesa della tua venuta, tu taci per amore e per amore parli. Così è nel silenzio, così è nella parola, tu sei sempre lo stesso padre, lo stesso cuore paterno. E ci guidi con la tua voce e ci elevi con il tuo silenzio. Grazie.